sì, siamo molto soddisfatti e soddisfatte perché abbiamo visto una partecipazione molto attiva e convinta della nostra comunità e che quindi ha posto, diciamo, fiducia in questa scelta collettiva che è stata non scontata, frutto di un lungo percorso di dialogo nostro al nostro interno, durato quasi un anno, e anche di una trattativa con, adesso possiamo dirlo, il candidato sindaco del centro-sinistra, che si è impegnato ad accettare nel suo programma le nostre sette idee primarie e a non accettare posizioni in contrasto con quelle stesse idee primarie. Quindi è stata appunto una trattativa lunga, un percorso lungo, ma ha portato buon esito. Adesso siamo convinti di poter dare attuazione a un programma che migliorerebbe di molto la nostra città. Quali sono i punti dirimenti che avete posto per questa alleanza? Allora, uno, hanno sette temi. Partiamo da quelli su cui abbiamo avuto forse un maggior contrasto con l'amministrazione, con cui invece adesso entreremo in una coalizione sicuramente. Il piano dell'urbanistica, il diritto all'abitare. Nello scorso mandato Bologna era diventata la terza città d'Italia più cara per costi dell'affitto. L'istruttoria pubblica sul disagio abitativo ha avuto un ruolo molto importante su questo. Da qui vogliamo partire, dobbiamo garantire il diritto alla casa a tutti e tutti, soprattutto quando partiranno gli sfratti, perché purtroppo terminerà il blocco degli sfratti. Già adesso si parla di un rischio di 8.000 famiglie sfrattate. Quindi dobbiamo garantire il diritto alla casa, ma dobbiamo farlo senza consumare ulteriore suolo. Dobbiamo favorire un grande piano per l'edilizia residenziale pubblica, contributi per l'affitto, fondi per la morosità incolpevole, insomma un grande rilancio del piano per l'abitare pubblico a prezzi calmierati, anche pensando a forme troppo poco utilizzate in una città universitaria come il canone concordato studentesco. Poi il tema del diritto all'ambiente e del contrasto al cambiamento climatico, questo era un punto molto importante. I prossimi anni sotto questo punto di vista saranno cruciali, lo sappiamo, e quindi abbiamo ragionato in realtà in un'ottica intersezionale, perché il contrasto al cambiamento climatico è un po' in tutti gli altri punti in realtà, soprattutto chiaramente in una mobilità sostenibile. Puntiamo fortemente sull'intermodalità, vorremmo ragionare di aumentare il trasporto pubblico gratuito, progressivamente aumentare le fasce di gratuità del trasporto, esigiamo il completamento del servizio ferroviario metropolitano, l'aumento di ciclabili e parcheggi scambiatori. Chiaramente siamo favorevoli al tram, ma il contrasto al cambiamento climatico significa anche lavorare sull'efficientamento energetico delle abitazioni, significa anche ragionare su questo dal punto di vista delle infrastrutture. Uno dei punti più complessi di questo accordo è che noi siamo contrari al progetto di allargamento del passante, così com'è, che dovrebbe portare le già molte emissioni che produce l'infrastruttura, 40% delle emissioni da traffico veicolare, al 50%. Con Matteo Lepore abbiamo detto: non possiamo avere un'infrastruttura che aumenta le emissioni in città, in una città in cui già oggi si vive 6 mesi in meno che in altre città solo per la cattiva qualità della nostra aria. Questo non è al passo. Non è al passo con il diritto alla salute delle future generazioni bolognesi, e quindi abbiamo ragionato su come modificarlo. Ci sarà una commissione tecnica che ragionerà su delle possibili alternative, ma soprattutto per lenire una ferita di partecipazione che in città esiste su questo tema, ci saranno delle assemblee sul clima, cui inviteremo esperti, associazioni ambientaliste, ma anche i grandi decisori. Sappiamo che è un'opera che ormai è giudicata, diciamo, di impatto nazionale, quindi inviteremo anche il ministro Giovannino. Ieri Isabella Conti ha detto che lavorerà attivamente per la vittoria di Matteo Lepore, e già, come dire, negli ultimi giorni, dopo magari alcuni scontri molto accesi, lo stesso Matteo Lepore ha tentato di ricucire. Non c'è il rischio che questa ricucitura porti a compromessi, che magari sacrifichi alcuni punti del programma che avete posto voi? Ma noi confidiamo nella costruzione collettiva del programma attraverso la fabbrica del programma, che ci vedrà sicuramente protagoniste, soprattutto anche in un impegno a sostenere una visione di città che ieri comunque ha vinto. È chiaro, Isabella Conti va all'onore delle armi, si è battuta fino alla fine, sicuramente risultato di grande partecipazione e anche merito suo, però è indubbio che ieri ha vinto una visione di città che ha scommesso sull'uscita a sinistra dalla pandemia. Non a caso questa sarà una coalizione che ospiterà, diciamo, come protagonisti sia la sinistra di Coalizione Civica sia il Movimento 5 Stelle, un paradigma sicuramente diverso da una visione di città e di coalizione che invece guardava più verso il centro quando non è il centro-destra.